dove il mare luce tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo chi aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia. Voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca sia di un'amica. Guardo negli occhi una ragazza, gli occhi verdi come il mare, quale improvviso uscì nell'acqua e lui credete di voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri mi fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Si diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensa poi tanto. Anzi, se sentiva già felice, ricomincio il suo canto. Ti voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue. Ti voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, una catena ormai che scioglie il sangue di te.